Ti allumanosi vicino alla bocca. Dai, lo tengo io. Allora, si è fatto questa piccola deviazione perché appunto alla vicina liberazione 28 agosto 44, cioè oggi tanti anni fa sostanzialmente, qui muore Enrico Gogo Rigacci, che appunto era uno dei partecipanti alla lotta alla equazione dei ferrovieri. Rigacci era nel SAP dell'Olmatello, quelle laggiù in fondo, insomma, laggiù vicino all'aeroporto. E la particolarità è che, come avevo detto precedentemente, la manifattura tabacchi, che appunto succede questo il 28 agosto, solo 3 giorni prima della liberazione della città, perché cade combattendo durante una, per respingere una delle tante incursioni che o le controffensive tentavano di fare i nazisti durante il periodo appunto dai 18 ai 31 agosto. Il fatto è che cade combattendo qui perché, tra l'altro, oltre a aver minato e buttato giù tutti i ponti di Firenze, eccetto il Ponte Vecchio, minano e buttano giù anche tutti i ponti sui Mugnone e sui Terzolle, e quindi anche il ponte qui, il ponte alle Mosse. E quindi qui ci sono le macerie, tutta la zona, infatti, come vedete, a differenza di quella c'è la manifattura tabacchi e via dicendo, anche a quelle, è una zona, diciamo, di costruzioni nuove. E appunto durante questi scontri su questi cumuli di macerie viene preso al dietro, mi sembra, no? Qui insomma alla testa, e quindi muore combattendo. Tra l'altro c'è da considerare anche che questo va detto anche rispetto a, diciamo, a queste falsificazioni storiche, che tutta la zona da qui fino alla zona intorno a Piazza Dalmazia è opera, cioè ci siamo, diciamo, gli spari dei franchi tiratori, questi infami sostanzialmente che sanitavano nelle case, in particolare case del quartiere, e che dalle finestre sparavano alle spalle, diciamo, ai partigiani, ai cittadini fiorentini. E quindi, oltre, diciamo, che alla battaglia vera e propria guerreggiata, c'era la necessità di fare queste opere di bonifica combattendo, diciamo, casa per casa sostanzialmente. Va anche detto, poi questo è un argomento che si riprenderà anche alla fine della camminata, che da quando inizia l'insurrezione vera e propria di Firenze, cioè dall'11 agosto fino al 31, non c'è nessuna forza alleata che dia un minimo di sostegno ai partigiani, eccetto una compagnia di canadesi, come tra l'altro faccio notare anche il signore qui, che presta 3 carri armati nella zona Piazza Dalmazia per, diciamo, difendere i partigiani dalla una delle tante controffensive tedesche. Cioè loro stanno sempre dietro. E c'è anche da notare che quando entrano anche nei posti, nelle località vicine, non sono mai inglesi o statunitensi veri e propri, sono reparti, diciamo, di quelle che sono le colonie, la loro colonia, per esempio a Campi, la cui liberazione verrà il 2 settembre, e tra l'altro venerdì prossimo c'è anche una iniziativa, il 2 settembre viene liberata dagli Havaiani, San Casciano viene liberata dai Maori, e Sesto viene liberata dagli indiani dell'India, cioè come è successo per esempio in tutte le loro guerre, Vietnam, Corea e così via, in cui mandavano avanti i neri, diciamo i black. Qui le prime reparti che entrano in queste cittadine vicino alla città sono tutti reparti, diciamo, composti da soldati delle colonie. Gli stessi francesi ci avevano i franchi tiratori senegalesi. Quando diciamo vanno a bonificare, sono nelle prime linee della guerra, insomma della battaglia. Qualcos'altro?